ricorressi alla fede. Amor da voi non chiede, chi amor per voi non ha. Per a chi vuol costringere delicare la libertà si del cor. Sostegno che il mio decoro accende dalla ragione armato, dal vero onor guidato, un vago ardir concorre in tali libertà. Sì, sì, farà, sì, sì, farà. La libertà per a chi poco stingere del cor la libertà d'ogni più sacro impegno sciolta pur sia la fede, sciolta pur sia la fede. Amor da voi non chiede, d'amor per voi non ha. Per a chi poco stingere del cor la libertà, sì, per a chi poco stringere del cor la libertà, per a chi poco stringere del cor la libertà, la libertà, la libertà, la libertà, la libertà.